Jaga. Unnanu kudu shamanu kudu nante triki naiyo. Boku wa moyashi nanka janai. Suki na tabemono tori niku. Boku wa moyashi otoko dewa nai sa. Itsuka kimi o mikome suru you ninaru sa. Ippan wa mata sagaro moyashi da kedo. Oh,